Una torre Eiffel illuminata con i colori dell'Europa ha fatto ieri da icona benaugurante al semestre di presidenza francese dell'Unione. Nicolas Sarkozy affronta l'esame più ostico del suo primo anno come massima carica transalpina, prendendo il timone di un continente ancora scosso dall'ennesimo fallimento di riforma istituzionale arrivato a colpi di no referendari dall'Irlanda. Proprio la bocciatura del Trattato di Lisbona ha azzoppato in partenza la presidenza Sarkozy, che già si preparava alle grandi manovre in vista della nomina del primo presidente europeo. A questo punto la priorità delle priorità sarà trovare una via d'uscita già a ottobre all'impasse istituzionale, ma Parigi cercherà comunque di portare avanti anche altri dossier, su tutti quello relativo al cosiddetto patto europeo sull'immigrazione, che punterà a evitare le regolarizzazioni di massa, insistendo invece su corsie preferenziali per gli immigrati forza lavoro, priorità pure al varo del pacchetto clima ed energia che, una volta superate le divergenze interne all'Unione, ridurrà le emissioni di gas serra e svilupperà le fonti rinnovabili. Caro petrolio e riforma della politica agricola comune, tra gli altri punti cardine del semestre. Parigi dovrà invece ridurre, dopo il no irlandese, le proprie ambizioni sulla politica europea di difesa e sull'armonizzazione della base imponibile per le imposte societarie. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore.